Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 408, nella quale parleremo di fauna selvatica mercificata, del comparto agroalimentare proposto come entertaining e di nuovi abbecedari che fanno crescere la consapevolezza. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Nel mese di ottobre del 2012 la storia di copertina della rivista di cucina Il Gambero Rosso era dedicata alla selvaggina e il titolo era La carne del futuro. La selvaggina, affermava la rivista più amata dai ghiottoni italiani, torna alla ribalta per la tendenza raw che viene dal nord, ma anche perché offre una carne sana e, se controllata, più sostenibile di altre. Così, tra vecchi riti e nuovi piatti, pernici, tordi, lepri e beccacce tornano a stimolare la fantasia degli chef. Nel 2015 però beccacce, beccaccini, alzavole e fischioni, cioè la cosiddetta cacciagione nobile da penna, è stata vietata nelle carte dei ristoranti italiani e gli agenti del corpo forestale, che ancora non era stato annientato, hanno cominciato a scoprire i rifugi segreti in cui queste carni vietatissime erano clandestinamente trattate. Nei giorni scorsi i giornali hanno riportato la notizia di un allevamento abusivo di cinghiali che è stato scoperto a Sesto Calende, in provincia di Varese. Un altro era stato scoperto durante l'agosto scorso in provincia di Rieti. Questi allevamenti si trovano solitamente in luoghi remoti e appartati in mezzo ai boschi, il che porta a pensare che quelli scoperti e denunciati siano solo la punta di un iceberg molto consistente. Come per ogni altro tipo di carne allevata, anche per il cinghiale dovrebbe valere l'imposizione del controllo sanitario e fiscale, ma in Italia non è così, tant'è vero che sempre nel sito internet della rivista Gambero Rosso troviamo questa affermazione. La cacciagione che gira in Italia è, nei fatti, all'80% illegale, al nero, non controllata da nessun veterinario, a cominciare da quella di cinghiale. E questo perché non ci sono macelli che fanno la raccolta della selvaggina abbattuta regolarmente. Nel sito internet di Italy, invece, si informa che la carne di cinghiale, proveniente da allevamenti certificati, è molto ricercata e che sono molti gli allevamenti di cinghiali in Italia. In quasi tutte le regioni, dice il sito di Italy, abbiamo aziende agricole che si occupano di questo tipo di allevamento. In Emilia-Romagna, a Corniolo, Slow Food organizza la Festa Selvaggia, una sagra che promuove piatti a base di selvaggina locale abbattuta da squadre autorizzate alla selezione numerica con il certificato di salubrità e identità rilasciato da un macello locale autorizzato. Anche in Toscana, recentemente sono stati aperti macelli autorizzati alla lavorazione delle carni degli ungulati dotati del necessario controllo sanitario. La selvaggina quindi è la carne del futuro, anche se, come nel passato, resterà la carne dei signori, quelli che potranno permettersi una pietanza sana, ricca di nutrienti, senza colesterolo, più costosa. I poveri continueranno ad acquistare carni agli ormoni, polli alla diossina, uova al fipromil. attorno alla carne di animali selvatici, insomma, si sta giocando una partita importante che vale la pena di seguire e approfondire. Su questo tema la nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha intervistato Massimo Vitturi, responsabile dell'area selvatici dell'associazione LAV. Sta crescendo questo concetto della valorizzazione economica delle carni di ungulati, e la cosiddetta filiera della carne di selvaggina, usando una terminologia venatoria. È un problema molto grosso che non riguarda solo l'ambito caccia, l'ambito venatorio, ma che si amplia e si estende molto oltre questi confini, e va proprio sulla questione del veganesimo. Aggredisce proprio il veganesimo smontando quelle che sono le nostre argomentazioni. Parli degli allevamenti in questo senso, degli allevamenti dei mattatoi. Gli allevamenti mattatoi, quindi l'eticità della carne di selvaggina raffrontata a quella di un allevamento intensivo. I sostenitori della carne di selvaggina ci dicono: questi animali nascono liberi, crescono liberi, vivono liberi e vengono uccisi in maniera teoricamente anche indolore di quelli in un mattatoio. Quindi per questo dicono è una carne etica, ma non solo, poi questo si espande anche alla questione ambientale. Diciamo sempre gli allevamenti intensivi, le problematiche, l'impatto ambientale sia sulle risorse da una parte, che potrebbero essere utilizzate per sfamare animali umani, sia anche sulle emissioni, il gas serra, no? Questo non riguarda la cosiddetta filiera della selvaggina. Una terza argomentazione che viene smontata, che può essere smontata, è quella della salubrità della carne, che la carne derivata dagli animali selvatici, dagli ungulati, in particolare di questa famosa filiera, le analisi dimostrano che il rapporto tra omega 6 e omega 3, questi acidi grassi di cui abbiamo bisogno, è perfettamente corrispondente alle linee guida sanitarie, cioè il rapporto è intorno al 2-3, cosa che invece non avviene nella carne d'allevamento, che è intorno al 20. 16-20. Quindi io all'orizzonte si prospetta una problematica che non solo investe la caccia, perché dà ulteriori argomenti per sostenere la caccia, ma investe tutta la questione della produzione animale, chiamiamola così, e che quindi va a smontare tutte le nostre argomentazioni contro l'utilizzo degli animali ai fini alimentari. E banalmente ti chiedo, possiamo smontare invece queste argomentazioni? Noi ci stiamo provando, proponendo un progetto di legge per l'abolizione della caccia. Cioè dobbiamo essere più veloci di loro. La valorizzazione delle carni di selvaggina è ancora allo stato iniziale. Ci stanno già lavorando, è basso, il numero è basso, intorno allo 0,5% del consumo totale di carne è proveniente da animali selvatici. Quindi siamo ancora all'inizio. Vediamo che tante regioni si stanno uniformando a questa filiera. La Toscana l'ha già fatto, la prima è stata l'Emilia Romagna, la Lombardia si è già adeguata, il Veneto ci sta arrivando, il Friuli Venezia Giulia ci sta arrivando, quindi la filiera, ovvero la valorizzazione, ovvero il cacciatore che uccide il cinghiale, riempie il suo freezer e poi ne uccide altri, perché lì avvia la filiera della carne di selvaggina, quindi vengono valorizzati e il cacciatore ottiene un guadagno economico da questo, cosa che garantisce il permanere della, definiamola, problematica degli ungulati sul territorio, perché ovviamente un cacciatore che ottiene un guadagno non avrà nessuna intenzione di risolvere il problema, garantirà l'incancrenirsi del problema da qui all'eternità. Resort to playing the man. It's a thin line that I walk. come on. Just waiting for my eyes to adjust in. See how ugly I've become. She asked me for no promises. I made them to myself. Giving myself no choice now. Il cinghiale, che quando è vivo e libero rappresenta un problema, danneggia le coltivazioni agricole e minaccia l'incolumità pubblica, da morto viene altamente apprezzato, specialmente in forma di stufato, sugo o salsiccia. Ricorderete che nel maggio scorso un cinghiale che gironzolava per le strade di Genova era stato inseguito e rinchiuso nel parcheggio di un ospedale, poi freddato con un colpo di fucile, benché non rappresentasse un pericolo per nessuno. L'uccisione a freddo di quel povero animale braccato aveva scatenato polemiche sui social da parte di animalisti, ma anche di semplici cittadini sensibili. Su tutti aveva tuonato Saba Wesser, ex fotomodella, ora candidata con Fratelli d'Italia, da tempo diventata la paladina dei cinghiali metropolitani. Nel mese di settembre, poi, sempre il Comune di Genova, con un'ordinanza, disponeva la possibilità di abbattere i cinghiali in ambito urbano, ma pochi giorni fa il TAR si è pronunciato e ha dichiarato illegittima tale ordinanza, accogliendo il ricorso presentato da OIPA e dalla Lega del Cane. È una buona notizia che però non ci consola per i troppi cinghiali abbattuti da liberi o allevati per morire. La settimana scorsa il Parlamento inglese riunito a Westminster ha stabilito che dopo la Brexit gli animali nella legislazione britannica non saranno più considerati esseri senzienti, a differenza di quanto accade adesso con il recepimento dei provvedimenti europei. Grande è stato lo sconcerto suscitato da questa notizia, che fa compiere un salto all'indietro a un paese che è stato precursore nel mondo sui diritti degli animali, sulla filosofia vegana e nelle battaglie animaliste. Il fotografo inglese Richard Bowler, specializzato nelle foto di fauna selvatica, commenta in modo tanto lapidario quanto efficace questa scellerata decisione. Ci può essere solo un motivo per negare che gli animali abbiano lo status di creature senzienti, e questo motivo è il loro sfruttamento. Le notizie più rilevanti del mese c'è l'apertura di FICO, il mega progetto bolognese a marchio Italy ideato dal patron Oscar Farinetti, sodale di Matteo Renzi. Mentre all'interno della cerimonia il presidente del Consiglio Gentiloni celebrava l'operazione FICO, che a suo dire rafforzerà il soft power della nazione italiana e ci farà invidiare dal resto del mondo, fuori dai cancelli di questa ennesima cattedrale del consumo, studenti e operai manifestavano contro quella che definiscono la giostra dello sfruttamento. Ma nel blocco dei manifestanti spiccano due grandi assenti: da una parte gli immigrati, a cui tocca fare il lavoro sporco nella filiera dell'agroalimentare, sono infatti loro che mungono, che squartano, che spalano le deiezioni e le carcasse, e gli animali, sulla cui carne e sulle cui vite distrutte qualcuno sta costruendo profitti e privilegi. Sentiamo il servizio a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Il Fico sta per Fabbrica Italiana Contadina, ma negli spazi che furono del centro agroalimentare di Bologna non ci sono né industrie né aziende agricole. E Fico, a essere un poco maliziosi, potrebbe anche essere una contrazione di finto contadino. Sì, perché la creatura promossa e gestita da Italy, di Oscar Farinetti e dal sistema Coop è quanto di più lontano si possa immaginare dalla vera agricoltura contadina, che al giorno d'oggi si trova in tutt'altri luoghi, in genere piazze e mercati di periferia, oppure in campagna, ma la campagna vera. Fico è semmai un Expo del cibo, come è stato definito, o forse ancora meglio una Disneyland del cibo, visto che l'accurato storytelling che ha accompagnato il fragoroso lancio del nuovo marchio si è subito indirizzato per l'appunto verso il turismo. L'obiettivo è di raggiungere i 6 milioni di visitatori all'anno, da attrarre scommettendo ancora una volta sugli slogan che hanno fatto la fortuna di Italy e che vengono ripetuti da anni fino alla nausea a reti unificate, fra telegiornali, show cooking e trasmissioni di cucina. Il mangiare italiano, le nostre tradizioni alimentari, le nostre eccellenze. L'avvento di Fico è stato tuttavia molto reclamizzato e molti denari sono stati investiti in pubblicità, con l'immagine di Oscar Farinetti esibita come una promessa, o forse la sintesi del progetto e delle intenzioni. Ma c'è da chiedersi quale sia il contributo di questa operazione ai cambiamenti che sarebbero davvero necessari per il sistema agricolo italiano, alle prese con problemi molto gravi come l'abnorme inquinamento, la distanza dal traguardo della sovranità alimentare, l'abbandono dei terreni montani e svantaggiati, il consumo di suolo, la vasta diffusione di lavoro sottopagato, a volte al limite o addirittura oltre il limite dello schiavismo. Si dirà che non c'è da aspettarsi granché da Fico e infatti non c'è niente, ma proprio niente del genere nel progetto. Nonostante la retorica e gli slogan sull'educazione, affidata poi pressoché in toto alle aziende espositrici, e sulla biodiversità, la quale si risolve in un elenco di prodotti tipici e in stanche affermazioni in neolingua bocconiana sulle nostre eccellenze e così via. Fico, in sostanza, è un nuovo grande centro commerciale. La risposta di Coop e Farinetti alla crisi presente e soprattutto futura della grande distribuzione, insidiata dai sistemi di ordine e consegna online. A quanto sembra, dunque, tanti slogan e tanto rumore per niente. Un rumore che include comunque belati, grugniti, muggiti, perché insieme alle 40 fabbriche, le 100 botteghe, le 2000 cultivar e così via, figurano anche 200 animali. Malcapitati e involontari testimonial di un sistema di sfruttamento e consumo che in nessun modo si vuole mettere in discussione. Oscar Farinetti, il giorno dell'inaugurazione, ha mostrato all'ex premier Romano Prodi proprio i poveri animali come fiore all'occhiello della fiera, restituendo un'immagine triste e decadente dell'intera operazione. E naturalmente senza spiegare come e quando quegli animali finiranno in un mattatoio, perché, verrebbe da dire, anche se la battuta è scontata, parlare di mattatoi non è molto Fico, da intendere ovviamente con la minuscola. Per il Fico con la maiuscola tocca rifarsi a un'abusata, ahimè, ma spesso efficace locuzione che abbiamo ereditato dalla Bibbia. Niente di nuovo sotto il sole. Oggi ascolteremo una fatina turchese, considerata una delle donne più belle del metal. Il suo nome è Alissa Whiteglutz, canadese, che dal 2014 è la cantante degli Arch Enemy, gruppo melodic death metal svedese che si è formato nel 1995. Alissa è nata e cresciuta in una famiglia vegetariana, ma adesso è vegana per motivi etici, esponendosi anche contro la caccia alle foche in Canada e per questo è stata premiata da Peter Too. Per far conoscere le sue suadenti doti vocali ho scelto di farvi ascoltare qualcosa dall'ultimo lavoro degli Arch Enemy che si chiama Will to Power, uscito a settembre. Il brano è The Eagle Fly Alone, un titolo che pare perfettamente in sintonia con Le aquile non volano a stormi di Battiato. Per chi non ha mai ascoltato la Pulzella, avverto che durante il brano non c'è un'interferenza, ma è proprio lei a cantare. Buon ascolto! L'abecedario degli animali è un progetto di comunicazione camuffato dal libro, anzi è indubbiamente un libro, in quanto consiste in un supporto cartaceo di 61 pagine e 21 illustrazioni, firmate da 7 ottimi disegnatori, dal costo totale di 21 euro, pubblicato da un editore che si chiama Safarà. È anche un processo di apprendimento sulla questione animale, un percorso in forma di abbecedario, appunto, che comincia con la A di astice e si conclude con la Z di zebra. La veste è semplice, che ricorda certi libri per bambini o certe affiche della Belle Époque, priva di fotografie realistiche e truculente, contribuisce a far calare gli scudi e il lettore viene preso per mano e condotto in modo gentile e neutrale, senza ammiccamenti ai sensi di colpa, in un campo inaspettato e sicuramente scomodo, perché ad ogni lettera è abbinato sì un animale, ma anche un fenomeno di sfruttamento di cui l'animale in questione è vittima. L'autore, Alessandro Fiori, spiega in coda al libro che l'abecedario è solo uno dei risultati di un progetto di studio più ampio che ha costituito la sua tesi di dottorato in sociologia della comunicazione e che aveva come oggetto le scelte alimentari cruelty free. Per incuriosirvi, abbiamo scelto un brano tratto dal libro in questione, per la precisione pagina 39, lettera P, P come piuma, P come piumino. La maggior parte della piuma d'oca in commercio proviene da allevamenti intensivi di oche o anatre. Normalmente le piume vengono ricavate attraverso la tecnica della spiumatura in vivo, attività vietata in Italia, ma non a livello europeo. Strappare le piume a un animale vivo è una pratica che lascia la pelle contusa e spesso lacerata. Il tempo impiegato per spennare a mano un'oca adulta e ottenere circa 200 grammi di piuma è di circa 2 minuti. Gli animali vengono spiumati la prima volta quando hanno solo 8 settimane e la spiumatura viene ripetuta anche 4 volte in un anno fino a quando l'animale non è più in grado di produrre piume di qualità. A questo punto viene mandato al macello. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Per rimanere in tema selvatico, la ricetta di oggi ha come protagonista un'erba spontanea conosciuta come silene selvatico o sclopit, come si dice in friulano, regione dalla quale questo piatto ha le sue origini. Gli ingredienti per 4 persone per il risotto allo sclopit sono 50 g di sclopit, 320 g di riso carnaroli o vialone nano, del brodo vegetale, 2 cipolle, 125 ml di vino bianco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 cucchiaio di panna di soia e sale. Sbucciate e tritate una cipolla. Mettetela in un tegame assieme ad un mezzo bicchiere di acqua. Quando il liquido sarà completamente evaporato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Lavate e pulite da eventuali radici lo sclopit. Unitelo alle cipolle e fate cuocere a fuoco lento per 10 minuti. Se dovesse rimanere troppo asciutto prima che finisca la cottura, bagnate con del brodo vegetale. A parte, in un altro tegame fate la stessa cosa con l'altra cipolla. Questa volta, dopo averla fatta rosolare, aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche minuto. Bagnate col vino bianco e lasciate evaporare. Portate a cottura con del brodo vegetale e dopo 10 minuti unite gli sclopit stufati. Aggiustate di sale e finite di cuocere il riso. Mantecate col cucchiaio di panna di soia. The wind that never comes. In love, sageless, the mothers milk their young. But I can keep running, no, oh, I can keep running. Siamo in chiusura, ringraziamo l'ospite della settimana Massimo Vitturi. Per il resto vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata tutta la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 409 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.